La danza della vita di Narada Michael Wald, The Dance of Life, ci ricorda che questa è Radio Cerrano e questa è, sono le schegge impazzite del sottoscritto di Carl Bartelboom, meglio conosciuto come Carlo, ecco, diciamola tutta. Sono le 20:35, minuti primi, e noi prima di tutto facciamo un augurio a tutte le donne, a tutte le donne che sono in ascolto e magari anche quelle che non sono in ascolto, raccontateglielo che noi stasera le salutiamo tutte. Naturalmente siamo pienamente concordi con quelli che dicono che le donne vanno rispettate sempre, le donne vanno sempre come dire accudite e rispettate, e non solo l'8 di marzo. Allora, questa sera è la scheggia, prende un va da una parte abbastanza nota, diciamo, perché ho deciso di dare un'impronta un po' classica, nel senso non che sarà musica classica, ma parleremo di un autore polistrumentista, un artista incredibile che ha sicuramente influenzato la musica negli ultimi 40 anni, anzi diciamo che ha creato delle vere e proprie strade. Sto parlando di Peter Gabriel. Peter Gabriel è uno di quegli artisti che in qualche modo ha spianato, mi ripeto, la strada a tantissimi altri musicisti. Uno, naturalmente, dobbiamo dividere le sue due vite, o forse tre vite artistiche, perché naturalmente c'è il Peter Gabriel dei Genesis e poi c'è il Peter Gabriel solista, che ha fondato una serie di importanti linee musicali, ecco, e non per questo tutti lo additano un po' come il precursore della world music, ma comunque il suo zampino c'è anche nel progressive, perché era un po' l'anima dei Genesis. Però io questa sera voglio iniziare questa cavalcata, questo viaggio attraverso la musica di Peter Gabriel, e non solo, perché comunque Peter Gabriel è un istrione, con un brano che sembrerebbe ci azzecchi poco, ma non è così. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die, this rose will never die. Tutto avviene nel 1966 quando Peter Gabriel si incontra i suoi un paio di amici che poi diventeranno compagni di viaggio a livello musicale. La cosa che è interessante, che stavo notando l'altro giorno, è che comunque queste band che sono un po' rimaste nella storia della musica progressive, ma anche del rock, non parlo solo dei Genesis ma anche di tantissime altre band, nascono in ambiti scolastici, nel senso che Gabriel, che frequentava la Charterhouse Public School, forma una band a cui dà il nome di Garden Wall insieme ai compagni Tony Banks e Chris Stewart. Poi nel 67 il gruppo si fonde con altri due componenti di un altro gruppo che prendeva il nome di Hannon, e un'altra band studentesca, questa qui sempre della Charterhouse. E quindi stiamo parlando di Mike Rutherford e Anthony Phillips, quindi danno vita al primo gruppo dei Genesis. Questo gruppo comunque, come vi dicevo prima, nasce, ruota tutto intorno alla scuola. Ecco che la scuola diventa, ma lo è tuttora in Inghilterra, un punto di riferimento per chi vuole fare musica, ma di qualsiasi tipo, non solo musica rock, classica, coro, ecco, coro. E chi fa musica in Inghilterra, ma anche in altre zone dell'Europa, dell'est Europa, è sempre visto con un occhio di riguardo dall'intera società, è un qualcosa che contraddistingue. In questo noi italiani dovremmo un pochettino imparare. E questo primo nucleo, quindi, si pone come una sorta di, questo lo dice, lo dicono i suoi componenti in alcune interviste, come una sorta di cooperativa di musicisti che volevano scrivere e comporre per altri. Il nome dei Genesis viene suggerito da un altro studente della Charterhouse, e cioè Jonathan King, che poi sarà il produttore del primo album di questo gruppo, e cioè From Genesis to Revelation. E questo è un po' l'avvio della musica di Peter Gabriel come musicista e come performer, perché comunque poi, come dicevo prima, Gabriel ha avuto una carriera che non possiamo racchiudere con un solo termine, non so, cantante, musicista. È veramente un performer, perché la svolta dei Genesis la dà lui, soprattutto dal vivo. E poi lui in qualche modo è quello che partecipa a una serie di collaborazioni importanti, e tra le quali quella che abbiamo fatto ascoltare prima, e cioè quella con Cat Stevens, per il quale Gabriel in quel brano, per il quale Gabriel naturalmente suona alcuni strumenti. Il brano è Lady Dubarville, che abbiamo estratto dall'LP, che porta il nome naturalmente di Mona Bone Jackson, del 1970, quindi c'è la prima collaborazione importante, diciamo, di Gabriel con Cat Stevens. Questa che stiamo ascoltando sotto invece è un cavallo di battaglia dei Genesis, ascoltiamocela e poi vi spiego il perché l'ho inserita nella scaletta. Into flame to be destroyed, imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a chord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no wrong to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. My second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in. Upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet called us, he dare call us. We gotta get in. Mile Man and Superman, a hell Bene, perché Carpet Crawl, che è uno di quelli, insomma, dei brani che mi piacciono di più dei Genesis, insieme a The Cinema Show, Mad Men Moon, vabbè, comunque i classici. No, questo brano l'ho inserito in scaletta naturalmente per segnare un po' l'avvio della carriera di Peter Gabriel, che è innegabile, è stato il leader dei Genesis fino a un certo punto. Dopodiché il tutto ha cominciato un po' a scricchiolare. Questo è l'ultimo brano, Carpet Crawl è l'ultimo brano in cui Peter Gabriel canta appunto con i Genesis, l'ultimo brano inciso per questa storica band. Dopodiché Peter Gabriel, i cui rapporti con i Genesis erano cominciati un po' a scricchiolare quando in pratica la prima moglie ebbe problemi con il parto, lui questo, diciamo, la versione ufficiale, lui non partecipò a un tour, le altre versioni invece parlano di una serie di contrasti con l'intera band, perché in qualche modo c'erano, insomma, Gabriele era preponderante all'interno del gruppo, soprattutto per quanto riguarda i testi, e quindi la cosa non piaceva ad alcuni componenti. Dopodiché, di questo abbiamo parlato nel programma che io ho dedicato ai Genesis. Dopodiché, naturalmente, i Genesis hanno quasi clonato la voce di Peter Gabriel, perché comunque hanno continuato con il batterista, e quindi la cosa è stata in qualche modo ammortizzata, ma naturalmente la band non è stata più la stessa, ha preso un'altra strada, ed è anche un po' il motivo per il quale per lo stesso motivo Peter Gabriel ha abbandonato poi la strada del progressive. Ma io il brano che vi voglio fare ascoltare adesso è un brano che segna la rottura, quindi in questo brano, che è Salisbury Hill, Gabriel racconta il perché, o comunque tenta di raccontare le motivazioni, in maniera artistica naturalmente, del suo abbandono dei Genesis. Beh, abbiamo avuto un colpo abbastanza duro. No, perché noi insomma siamo autodidatti qui, quindi lavoriamo, io e Carlo lavoriamo ormai in simbiosi, e ogni tanto però la simbiosi si perde. Allora, Peter Gabriel, questa è Radio Cerrano. Io vi ricordo che Radio Cerrano Web è una radio importante ormai, lo possiamo dire, Carlo? Sul territorio, sì, dai, lo possiamo dire. Lo possiamo dire. Possiamo dire con gioia. Lo possiamo dire con gioia, anche perché cominciano a fermarci per strada, quindi insomma la cosa comincia a preoccuparmi un pochettino, ma a parte questo, a parte gli scherzi, io volevo anche ringraziare tutti quelli che ci sono vicini, che ci stanno dando una mano, che ci stanno dicendo oh, ottimo, bene, andate avanti, sta cosa mi piace, questa cosa ci fa piacere, ve lo dobbiamo dire, il vostro incoraggiamento ci fa tanto piacere. È una radio che, come vi ho detto spesso, è strettamente collegata a un parco marino, e quindi ci fa doppiamente piacere. Il parco marino simbolizza in qualche modo la nostra regione, la nostra natura, il nostro paesaggio. La nostra è una regione stupenda, l'Abruzzo è una regione, ragazzi, che ve lo dico a fa. Stamattina sono stato a sciare a Passo Lanciano, forse l'unico luogo in Italia dove si può sciare guardando il mare Adriatico, insomma è uno spettacolo stupendo. E di questo dovremmo rendercene un po' conto tutti per far sì che non solo di essere orgogliosi di essere qui, ma anche in qualche modo di preservare al meglio questo nostro territorio. L'area marina Torre del Cerrano fa proprio questo, preserva un bellissimo territorio, in questo caso marino, in cui 7 km di costa sono costantemente monitorati, sono costantemente tenuti sotto controllo, non solo per quanto riguarda l'ambiente, ma anche, come vi dicevo l'altra volta, per quanto riguarda la storia, perché comunque l'area marina Torre Cerrano, la peculiarità di quest'area marina, ve lo posso assicurare perché tempo fa abbiamo avuto anche degli incontri con dei rappresentanti europei che ci dicevano che la peculiarità di quest'area marina, di questa torre, di questa zona, è proprio l'innesto che c'è tra natura e storia, perché ormai lo sapete tutti, lì di fronte all'area marina c'era l'antico porto. Ci sono ancora i resti, in quel caso, del porto medievale di Torre Cerrano, di Atria, ma c'è l'antico porto di Atria Picena. E quindi, insomma, siamo fortunati e di questo dobbiamo rendercene conto, e quindi allo stesso tempo responsabilizzarci, perché la cosa non è una cosa da poco, sicuramente. E poi, che dire, questa nostra radio la potete ascoltare in una serie di piattaforme, e le abbiamo ripristinate perché abbiamo avuto dei passaggi tecnici importanti, siamo sul cloud adesso, quindi insomma ci stiamo evolvendo anche sotto il profilo tecnico, quindi Listen to My Radio oppure TuneIn sono le piattaforme dalle quali potete ascoltarci, scaricate le applicazioni, ma anche Radio Garden ha la stessa funzione. E mi diceva Carlo giustamente che queste piattaforme non è che concedono a tutti l'ingresso, quindi insomma su questo siamo anche orgogliosi, di questo siamo anche orgogliosi. Bene, finito questo pistolotto su di noi, io direi di ritornare all'argomento della serata, che come vi dicevo è Peter Gabriel. Peter Gabriel e le sue innumerevoli sfaccettature. Siamo arrivati al momento in cui Gabriel rompe il sodalizio con i Genesis. Lo fa e lo racconta nel brano che abbiamo appena ascoltato, Salisbury Hill, e racconta i suoi pensieri, mette insieme un po' i suoi pensieri, raccoglie i pensieri che gli erano venuti dopo la rottura, e quindi inizia questa sua carriera da solista. Gli albori, quindi il primo album di di Gabriel come solista è quasi un ritorno al passato, o comunque un album studio, un album che cerca di sondare alcuni comunque rompe completamente con quello che era il suo quello che era il suo erano i suoi input musicali fino a quel momento. Quindi cerca nuove strade, cerca nuovi modi di espressione, e quindi lo fa anche utilizzando nuovi strumenti, perché nel 76, appunto, il primo album che è tra parentesi prodotto da Bob Ezrin, che è uno dei più famosi produttori, o comunque in quel periodo lo era, e tenta quindi di dare anche un corso nuovo alla sua carriera, utilizzando anche nuove espressioni, come dicevo, e anche realizzando dei video. Siamo proprio nel periodo, agli albori della video musica, diciamo. In quel periodo ci si rende conto che comunicare non solo attraverso la musica, ma anche attraverso le immagini, colpisce molto di più il cosiddetto immaginario collettivo. Una grandissima antenna come Peter Gabriel non poteva farsi sfuggire questa occasione, e comincia quindi anche la sua produzione. Salisbury Hill ebbe un grosso successo commerciale, l'LP non era facilmente, come dire, addomesticabile. Ed è anche un brano che comincia a essere proposto anche all'interno del video, così come invece viene proposto un video che ha un ottimo successo, diretto da Peter Medak e girato sulle scale mobili, di questo brano che vi facciamo ascoltare adesso, Modern Love. Just Bene, abbiamo ascoltato questo Modern Love che forse qualcuno, non lo so, molti di voi non ricorderanno, però andatelo a vedere magari su YouTube, è un brano che piacque molto, ma allo stesso tempo colpì molto per la sua modernità, per quanto riguarda il video soprattutto, un video girato, come vi dicevo, su delle scale mobili, diretto da Peter Medak. Quindi ecco la seconda vita di Peter Gabriel è appunto caratterizzata da questa voglia di cambiare completamente strada, di invertire una marcia e quindi farsi dimenticare come cantante dei Genesis e farsi apprezzare come musicista poliedrico. E diciamo che, diciamolo subito, ci è riuscito al meglio. Peter Gabriel, a mio avviso, è veramente una delle colonne della new wave, ma nel senso proprio di nuova ondata musicale che dagli anni 80 in poi travolse un po' tutti quelli che erano gli schemi che c'erano prima. E questo lo dobbiamo anche alla sua voglia, alla sua grandissima voglia di collaborare, di intrecciarsi. Ecco, qui ritorna di intrecciarsi con altre esperienze e con altri musicisti, naturalmente. Qui ritorna un leitmotiv che è fondamentale nella musica e nella cultura in genere, cioè quella della commistione, della contaminazione. Il contaminarsi, così come accade spesso nella vita, significa anche arricchimento. E quindi quella che gli americani chiamano brainstorming, nel senso che una tempesta di cervelli genera sempre qualcosa di buono, anzi di migliore rispetto a un solo cervello, a un solo chitarrista, a un solo musicista. Ecco, e Peter Gabriel questo lo capisce subito. Peter Gabriel quindi, come vi dicevo prima, ha iniziato la sua carriera con una serie di collaborazioni importanti, ma poi continua questo. E adesso vi faccio ascoltare un brano bellissimo che lui inserisce nel suo primo album, sempre parliamo del primo album, tra parentesi degli album un po' minimalisti, perché gli album di Peter Gabriel vengono segnati come primo, secondo, terzo e quarto e basta. Poi la casa discografica cominciò un po' a imporre qualche titolo, ma in questo senso lui era abbastanza netto. E così come bisogna ricordare che rimangono anche importanti le copertine degli album di Peter Gabriel. Vi dicevo, ad esempio, lui fa una serie, si intrattiene nel senso che collabora con una serie di importanti musicisti, e ad esempio un brano che è Here Comes the Flood, che secondo lui era stato, come lo definisce lui, iperprodotto. Lui stesso dice che la versione che fa insieme a Robert Fripp, che nel disco Exposure, è molto più essenziale, molto più bella. Noi adesso ve la facciamo ascoltare. Of steel, of metal, at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. A me piace molto questo brano, Here Comes the Flood, e dicevo, in questa versione lo abbiamo ascoltato con Fripp, Robert Fripp e Peter Gabriel. Per chi non lo sapesse, Robert Fripp era il chitarrista dei King Crimson e nel 78 produsse il secondo album di Peter Gabriel, che insomma non ebbe un grossissimo successo commerciale, però insomma cominciava ad aprire la strada verso le nuove frontiere musicali che Gabriel pensava, che Gabriel immaginava, perché comunque è stato un percorso ben preciso quello che Peter Gabriel ha intrapreso, sia con i Genesis, sia dopo, poco dopo essere andato via dai Genesis, quindi questa rottura netta con il mondo del progressivo o il mondo dei Genesis, per non essere ricordato, appunto, come vi dicevo prima, come l'ex componente dei Genesis, ma voler essere ricordato come musicista. La sua istrionicità, passatemi il termine, è un la si vede anche in una serie di progetti che comincia a fare, anche ad esempio pensa ad un film tratto da The Lamb Lies Down on Broadway, che naturalmente era una delle degli album dei Genesis, quindi da quel progetto e da quell'esperienza vuole trarre un film e comincia a lavorarci su questo con una serie di registi, una sorta insomma di storytelling che poi alla fine non vedrà la luce. E quindi nel 1980 tenta un altro incide un altro brano, però adesso io vi voglio far ascoltare un brano tratto dal secondo album, e cioè Excuse Me. Volevo inserire, anzi ho inserito questo brano in scaletta perché volevo un po' farvi rendere conto anche dei tentativi da parte di Gabriel di cambiare rotta. A volte anche, potrebbe dire qualcuno, andava a tentoni. Questo è un brano che sembra essere tratto da un vecchissimo album, un album d'altri tempi, magari degli anni 30. Era una specie di... di scherzo musicale o comunque un tentativo di recuperare determinate sonorità. Ecco, questo vi dà un po' il senso di come si è mosso Gabriel nei primi, io dico, due, tre album. E infatti il prossimo brano cambiamo completamente, nel prossimo brano cambiamo completamente sonorità. Potete ben ascoltare, cominciano ad arrivare i tamburi. Era il 1980 e questa musica segnò veramente una nuova frontiera, perché comunque Peter Gabriel con questo terzo album in cui era introdotto appunto questo brano Intruder e gli altri due che vi facciamo ascoltare, comincia a correggere il tiro, a inserire quelle modifiche importanti nella musicalità che poi svilupperà e che poi qualcuno darà il nome poi di world music, perché richiama qualcosa di antico, qualcosa di vecchio, comunque di ancestrale, se vogliamo. E questo Intruder tra parentesi è un brano che lui copia un pochettino da quella che è una linea melodica di Phil Collins. E vi dicevo, arrivano i tamburi, arrivano appunto questa musica in cui lui elimina quasi sempre, quasi del tutto, anzi del tutto, i piatti della batteria, e elimina anche gli assoli di chitarra. È un qualcosa di molto ritmato, di molto, se volete, primitivo. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. Kill the merchant, the man. Biko, fu un successo internazionale naturalmente. Stiamo parlando di Stefan Bantu Biko, e cioè che poi era più noto come Stevie Biko. La sua storia: nel 1977 fu arrestato e preso a un posto di blocco dalla polizia sudafricana e rinchiuso nel carcere di Port Elizabeth per un mese e sei giorni. Durante la detenzione fu sottoposto a interrogatori e torture. Alla fine morì per una grave lesione al cranio. E nel 1980 Peter Gabriel appunto gli dedicò questo brano, che in Sudafrica fu vietato all'inizio, poi fu ripreso invece nel 1986 lo stesso brano dai Simple Minds nell'LP Street Fighting Years, nel 1989, scusate. E quindi Beacon ormai era diventato un simbolo, ed è stato un simbolo, anche perché poi naturalmente questo brano diventò un po' una sorta di inno contro l'apartheid in Sudafrica, quindi fu dedicato anche a Nelson Mandela e Victor Jara. E fu ripreso anche da Joan Betts in un album dell'87. E quindi ecco, in questo caso vediamo anche l'impegno di Peter Gabriel, e questo sotto il profilo culturale appunto. Sotto il profilo musicale invece questo brano è importante perché segna, come dire, la prima via, il primo strato che poi un po' alla volta costruirà nel tempo verso quella che poi molti i critici, insomma i più bravi hanno definito come world music. Vi ho detto le caratteristiche di questa, le peculiarità di questa musica erano appunto nell'uso del tamburo, come potete sentire, nel richiamare appunto sonorità antiche, antichissime. È un po' la world music, che è la musica che prende spunto ancora dalle tradizioni, dall'antichità, da tutto quello che viene da lontano. Lui è stato un po' il primo. Vi dicevo che Peter Gabriel è stato l'altra sera, quando abbiamo fatto il programma sulla musica sarda, è stato uno di quelli che ha prodotto e ha inciso brani dei Tenores di Bitti. Adesso ci ascoltiamo un altro brano che fa sempre parte del terzo album, molto, insomma, molto, molto famoso, quantomeno per quelli che frequentano questo tipo di musica, Games Without Frontiers. Hans plays with Lottie, Lottie plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons. Kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Without, Games Without Frontiers era il brano che abbiamo ascoltato, e anche questo insomma comincia a definire bene quella che poi sarà la linea musicale, dicevo, di Peter Gabriel. Io però stasera volevo approfittare della festa della donna per propagandare una donna importante, io credo, per la nostra regione, una donna che una scrittrice, ecco, io lo faccio vedere anche il libro che ho in mano, ed è un libro che ha vinto il premio, se non sbaglio, Campiello, sì, il premio Campiello. È un libro che io naturalmente ho letto. Si tratta di Donatella di Pietrantonio, L'Arminuta. L'Arminuta è un nostro termine, la ragazza che è ritornata, anzi in questo caso direi la bambina e poi diventata ragazza che è ritornata. La storia è proprio intorno alle esperienze contrastanti. Bello, un libro non aspettatevelo semplice, un libro tosto, un libro che in questa serata appunto dedicata, che io dedico a tutte le donne, ecco, ho pensato che ci stesse veramente bene. Peter Gabriel poi è uno di quelli che non si è occupato esclusivamente di musica, ma anche di problemi, di problematiche sociali. Qui invece il romanzo, non so quanto di autobiografico ci sia in questo romanzo, spero non molto, perché comunque è un romanzo abbastanza duro, perché parla del ritorno di una ragazza, di una bambina che era stata adottata dalla zia, poi torna dagli zii o dai parenti, da alcuni parenti, poi torna nella sua famiglia d'origine e il ritorno non è dei più semplici. My name, but no one wants you anymore. Piange un po' il cuore arrivare su questo assolo di basso, però comunque ecco, il brano è struggente, è un brano che probabilmente è conosciutissimo, uno dei più conosciuti che Peter Gabriel ha composto e ha interpretato insieme a Kate Bush, non lo so. Salutiamo quelli che ci stanno ascoltando, Vincenzo, Piera, Federico, vabbè, dei nostri, Marco è dei nostri, Fabiano è dei nostri, sono tutti nostri. E li salutiamo e li ringraziamo per l'ascolto. Dicevo, Don't Give Up è uno splendido, struggente brano che è tratto dall'album di Peter Gabriel, So, 1986, poi quindi con questo brano venne fatto un singolo, allora si usavano ancora i singoli, che ebbe un grossissimo successo, entrò nel top 75 dell'Inghilterra inglese, ed è il brano, come vi dicevo, un brano che peraltro è attualissimo, perché pur avendo quasi 32 anni parla di un uomo che descrive la disperazione di un uomo che si sente isolato e sconfitto dal sistema economico. E quindi c'è la disperazione in questo duetto, la disperazione dell'uomo che si sente, come vi dicevo, sconfitto, che si sente ormai tra virgolette fallito, e dall'altra il buon senso della voce femminile, il buon senso della donna. Ecco perché era importante inserirlo anche questa sera, questo brano, cioè il buon senso della donna che dice don't give up, non andare, non andartene, non mollare, non lasciarti prendere dalla disperazione, continua a combattere, cerca di essere ancora lì e di non dargliela vinta a questo tipo di società, a questo tipo di realtà che in questo momento ti sta distruggendo. Fire. Something knocked me out the train. Bene, lo sapevamo, questo finiva così e eravamo preparati, come potete sentire. Dicevo, Shock the Monkey, abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati al 1982 e all'LP So, l'LP numero 4 se non sbaglio. Sì, Peter Gabriel 4, quarto. Perché comunque Shock the Monkey viene un po' indicato da tutti come il brano che dà vita, come vi dicevo, a quella nuova musicalità, quella che poi viene definita world music. Ma io ci tenevo un po' a farvela sentire, sempre rimanendo nel tema dell'impegno sociale di Peter Gabriel, anche delle tematiche che poi vengono sviluppate intorno alla cosiddetta festa della donna che sta per finire. Manca poco, ma io credo che in questo momento siamo proprio al culmine, no? Delle feste goderecce, insomma, delle donne, ma va bene anche questo. Dicevo, perché? Perché Shock the Monkey, per molti, quando uscì questo brano, molti lo definirono come un brano che celebrava, se volete, o comunque cantava quelli che erano gli istinti animaleschi dell'uomo. Perché sto... gli istinti animali. Ogni tanto Carlo si diverte a mettermi questi gli istinti animaleschi dell'uomo, ma fu proprio Peter Gabriel poi a spiegare invece il significato pieno del brano. E il brano era non era assolutamente una canzone, un brano animalista, quindi a favore dell'animale, dell'istintività dell'animale, quanto piuttosto era un brano di denuncia nei confronti di quegli uomini e quelle persone eccessivamente gelose, quindi che scatenavano con la gelosia degli istinti bestiali, degli istinti animaleschi. E questo, torniamo a dire, un altro grosso argomento d'attualità. Come potete vedere, gli artisti hanno sempre un'antenna privilegiata nel sentire, nel recepire quelle che sono le tematiche che adesso noi diciamo attuali, che magari nel 30 anni fa non lo erano, ma in effetti è vero. Ormai ci troviamo di fronte a una serie di avvenimenti in cui la possessività, la non educazione, la non buona educazione al possesso o ai sentimenti porta a tragedie familiari giorno per giorno. Thank you. Beh, è un brano travolgente, io direi coinvolgente e travolgente. Questo era il brano The Hit, tratto dal film Birdie, sulle ali della libertà. Le ali della libertà, un film che ha fatto epoca, e anche la colonna sonora, che è appunto di Peter Gabriel, ha fatto epoca. E quindi sì, ecco che no, adesso non mi sento, adesso sì, dicevo, non avevo bene il ritorno in cuffia, ha fatto epoca. Io mi ricordo l'uscita di questo film, stiamo parlando del 1984, è un film di grosso impatto, di grosso effetto, così come le musiche. Queste musiche segnano quindi un altro ambito musicale in cui Gabriel si è cimentato, appunto quello delle colonne sonore o anche dei brani di grossi eventi, come poi ha fatto nel 2000. Ed è un brano che la dice tutta, che è veramente collegato a quella che è la tematica e la storia del film. Per chi non se lo ricordasse, stiamo parlando del film, che è la regia di Alan Parker. Appunto, Alan Parker volle Peter Gabriel per questa colonna sonora, che era tratto, questo film era tratto da un libro che aveva avuto successo, e parlava di due amici che si erano rincontrati dopo la Seconda Guerra Mondiale in un manicomio, nel senso che uno era dentro al manicomio, Birdie appunto, e il suo amico che tentava di ristabilire un contatto. Alan Parker cambiò un po' l'ambientazione e traspose il tutto nel periodo della guerra del Vietnam, e quindi Birdie diventò un reduce della guerra del Vietnam, e suo amico naturalmente, Birdie cadde in uno stato catatonico, credeva di essere un piccione, mentre il suo amico tentava in tutti i modi di ristabilire un contatto, di rientrare nel suo mondo e riportarlo invece nel mondo, ma poi alla fine non ci riesce. La colonna sonora di Peter Gabriel è veramente coinvolgente, una di quelle che lasciano il segno, e credo che sia un po' la cifra veramente musicale di Gabriel. E io credo che la vera world music, come la si definisce adesso, nasca proprio con questa colonna sonora, perché come avete potuto ascoltare, il brano è veramente ancestrale, quasi, con questi tamburi che si susseguono di volta in volta e questo crescendo finale. E io credo che questo sia un po' il punto, non dico di arrivo, ma il punto di partenza per un qualcosa che poi, a mio avviso, sempre in un film lui raggiungerà con alcuni brani stupendi. Adesso uno ve lo facciamo ascoltare subito. Passion. Passion è la colonna sonora del film di Martin Scorsese, come molti di voi ricorderanno, L'ultima tentazione di Cristo, The Last Temptation of Christ, 1988. È una colonna sonora, io ricordo, devo essere sincero, io ricordo molto di più la colonna sonora che il film, che indubbiamente fece discutere, come fece discutere poi il film sempre sulla Passione di Cristo, girato in Italia. Però comunque questo film, questa colonna sonora denota, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, per quello che un po' ho letto, per quello che ho ascoltato, denota soprattutto un grosso lavoro di ricerca da parte di Peter Gabriel e degli altri importanti collaboratori, perché comunque quello che abbiamo ascoltato adesso insieme, o la voce che abbiamo ascoltato adesso, era quella di Nusra Fateh Alkan, e lì, e nel disco c'è anche la mano di Yusuf Ndour, di Billy Coban, insomma, anche qui Peter Gabriel si circonda di una serie di musicisti di grossa levatura, ma soprattutto di musicisti che riescono a scavare, a far riemergere quelle sonorità di cui vi parlavo prima. In effetti, a mio avviso, quando ascoltate questo album, avete proprio la sensazione di essere trasportati in quelle zone lì, in quell'area lì. Tra parentesi, stavamo vedendo prima con Carlo i nostri ascoltatori, e abbiamo scoperto anche di avere questa sera un paio di ascoltatori nei territori occupati palestinesi, quindi ecco, sono sonorità che ci fanno venire in mente appunto quei territori lì, quelle aree lì, e indubbiamente Gabriel ha fatto in quel disco, in quella musica, con quella musica, un grossissimo lavoro. Ecco allora che possiamo sicuramente chiamarlo minatore del musicale, archeologo musicale, e allo stesso tempo innovatore, con una serie di brani. Tra questo che vi sto per fare ascoltare è veramente struggente, e porta il nome, sempre tratto dall'album Passion, porta il nome di With This Love. Thank you. Bene, bene, direbbe il nostro Vincenzo. Bene, bene, bene. Lo salutiamo, credo che sia all'ascolto, è andato a letto, non lo sappiamo. Sono le 22:14, fra un po' di minuti, insomma, chiuderemo questa serata. A me è piaciuta molto, sta piacendo molto, insomma, mancano alcuni passaggi e poi chiuderemo questo viaggio attraverso la musica di Peter Gabriel, naturalmente il tutto in maniera abbastanza risicata, perché insomma non si può racchiudere in scarse due ore una attività artistica così grande come quella di Peter Gabriel, però insomma ho tentato di darvi qualche indicazione. Poi io lo dico sempre, lo diciamo insieme anche a Vincenzo, le nostre sono vere e proprie indicazioni, e se poi qualcuno vuole, ormai gli strumenti sono tanti, può approfondire in qualsiasi momento, su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi mezzo di comunicazione, può andarsi a vedere se noi lo abbiamo, siamo riusciti, ecco, sì, io sono riuscito a incuriosirvi un pochettino. E dicevo, questa è un'altra vita musicale, un'altra vita artistica, quella del musicista che fa colonne sonore, oltre ai dischi naturalmente, e tant'è che nel 2000 Peter Gabriel venne invitato a comporre la colonna sonora dello show d'apertura del Millennium di Londra, a simboleggiare probabilmente un riconoscimento importante, perché comunque è un riconoscimento che va a un artista, come vi dicevo prima, monumento da parte di quella che è l'intera collettività inglese. Per un evento così importante ci voleva veramente un musicista così importante. Musica eterea, musica naturalmente adatta a quelle che erano una serie di performance che si svolgevano all'interno del Millennium di Londra. E anche qui, insomma, possiamo vedere questa vena anche poetica da parte di Gabriel, ma non solo poetica. Ecco, una cosa che io terrei un po' a sottolineare della personalità di Peter Gabriel è quella a cui abbiamo accennato prima, e cioè la sua voglia anche di stare dentro a questa società, di contare anche, di dire la sua, e naturalmente di dirlo attraverso quello che è il suo linguaggio più importante, predominante, cioè la musica. E lui ci sta fino in fondo, lo abbiamo visto con Biko, lo abbiamo visto anche con Don't Give Up, scrive e dice quello che pensa su determinate situazioni, lo fa in maniera poetica, lo fa in maniera lo fa a modo suo, ma lo fa anche con fatti concreti. Ad esempio Peter Gabriel ha avuto un ruolo importantissimo nel supporto di Amnesty International, partecipando ad esempio allo USA Conspiracy of Hope Tour dell'86 e allo Human Rights Now Tour del 1988. Ha dato appunto un grosso apporto, e quindi credo che questo artista, come gran parte dei grossi artisti, ecco, di quelli con la A maiuscola appunto, abbia dato abbia caratterizzato l'intera sua carriera appunto con queste partecipazioni, con questi punti fermi anche della sua produzione, col non tirarsi indietro e con il dire la sua su argomenti che in quel momento, adesso non più, ma in quel momento erano veramente spinosi. The rich and the Ha sempre intrecciato tematiche sociali a quelle anche un po' più personali, e questa è una di quelle. Questo brano bellissimo, bellissimo, è un brano che non è stato super ascoltato, diciamo, però è un brano bello. Come talk to me, vieni, parla con me, è un invito, un'esortazione anche alla figlia che non vede da anni, dalla figlia della prima moglie. E quindi, come vedete, un Peter Gabriel che si divide tra tematiche sociali, come vi dicevo, e quelle un po' più personali. E in questo brano, tra parentesi, il musicista inglese duettava con Sinead O'Connor, quindi quasi una sorta di duetto. A lui piace, come abbiamo visto anche con Kate Bush, una sorta di duetto appunto tra padre e figlia. Ci avviamo alla conclusione di questo, anzi siamo arrivati proprio alla fine, è il momento di salutarvi. Io vi do appuntamento a martedì, credo quasi sicuramente, con Mississippi Mood, che abbiamo scoperto essere il titolo del nostro programma, del programma di Vincenzo, ma di una birra. Quindi Vincenzo l'ha preso a prestito dal nome della birra. E questo è Radio Cerrano. Questa sera abbiamo cavalcato le note di Peter Gabriel. Spero di aver fatto cosa gradita. Saluto tutti quelli che sono stati all'ascolto, e tutti quelli che ci riascolteranno attraverso i nostri podcast. E quindi non mi resta altro che augurarvi una serena nottata a tutti gli uomini che sono rimasti a casa, e non lo so, le donne torneranno fra un po', credo, ma fra un paio di orette. Buonanotte. break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Come make it real. Real as any place you've been. Get alive. Everybody knows dial, hold your breath, count to five, back slap, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay awake, it's gonna blow, it's gonna break.